C'è un tempo per fare, uno per riposare, il tempo da perdere è quello che non ho. E c'è un posto migliore a saperlo trovare, ma non è facile capire dove sta. Vedi amico caro, il grano d'estate è d'oro, l'uva maturerà e a settembre si vendemmierà. C'è un amore per ogni stagione, importante è viverlo, perché il tempo non sente ragione e passando lo ruberà. E c'è un treno per ogni stazione che si ferma un attimo e che poi ripartirà. C'è un tempo passato che si può ricordare, è il giorno che cambierà la vita anche per te. Vedi amico caro, fa presto che il frutto è raro, coglilo adesso, ma se lo cogli ti disseterai. C'è un amore per ogni stagione, importante è viverlo, perché il tempo non sente ragione e passando lo ruberà. C'è un dolore per ogni occasione, ma ti basta un attimo per toccare la felicità. Se tu vorrai e ritornano le emozioni perdute in un giorno di temporale, quando hai lasciato le tue illusioni e le hai buttate via, una parte di te ora.